Matilde Serao, Ersilia Maino e le salvatrici di fanciulle. Vi sono donne che sembrano essere nate per camminare nella nostra matria affiancate nell'intento. Vi abbiamo già raccontato le vite parallele delle regine Sichelgaita di Salerno e Matilde di Toscana, che nello stesso periodo storico, all'inizio del primo millennio, ebbero grande potere genetico e operarono da sud a nord per il bene della loro gente. Ora vogliamo proporvi un'altra incredibile coppia di donne che unificò l'Italia nel nobile intento di proteggere donne e bambini, ma soprattutto fanciulle, dagli abusi del mondo androcentrico e promuovere la loro istruzione affinché fossero libere e autonome. Stiamo parlando di Matilde Serao a Napoli e Ersilia Maino a Milano. Nate a soli 3 anni di distanza, nel 1856 Matilde e nel 1859 Ersilia, operarono nella seconda metà dell'Ottocento diventando portavoce dei diritti delle donne nel lavoro e di bambine e giovinette abusate e abbandonate senza mezzi. Pur avendo impostazioni agli antipodi l'una dall'altra, la monarchica e borghese Matilde Serao non volle mai definirsi femminista né emancipazionista, né mai volle sostenere le battaglie per il voto, per l'impegno politico e per il divorzio, tanto quanto invece la socialista Ersilia Maino dell'emancipazionismo fu icona, impegnatissima proprio nel combattere attivamente per tutte le istanze sui diritti delle donne. Non di meno furono accomunate dal dedicare completamente se stesse alla causa dei più poveri e sfruttati, specialmente le donne. Matilde Serao. Da anni diciamo, senza stancarci, che la società non potrà diventare più equa e sicura per le donne finché i programmi scolastici continueranno a ignorare le grandi antenate che hanno lasciato tali impronte nella nostra matria. Escludere dagli studi della gioventù italiana una gigante come Matilde Serao equivale a mantenere la popolazione zoppa e orfana della componente femminile della storia. Matilde Serao va studiata a scuola perché non è stata solo una scrittrice, giornalista e editrice, ma si è soprattutto occupata della società con impostazione genetica. Ha interloquito e contrastato ministri e si è preoccupata del benessere del suo popolo proprio come le grandi regine medievali e rinascimentali. Matilde ebbe il carisma di una regina, ma a scuola continuano a non parlarcene, nemmeno ora che le donne rivestono cariche politiche di primo piano, impensabili fino a qualche decennio fa, ma si sa che la politica rimane una faccenda impostata su basi maschili e patriarcali, anche ove esercitata dalle donne, mentre Matilde Serao agì nell'interesse della sua gente col cuore di una vera matriarca. In epoca neolitica sarebbe stata la madre di un clan. Per motivi politici, anziché nella sua amata Napoli, nacque in Grecia nel 1856. Il padre, militante antiborbonico, era dovuto fuggire al di là del mare Adriatico, dove aveva conosciuto la madre di Matilde, una nobile decaduta. Quando la bimba nacque, la venerabile Enrichetta Caracciolo, nobile napoletana, militante garibaldina di cui la nostra scuola si è recentemente occupata, aveva 35 anni. Dunque, le due donne sicuramente si incrociarono, poiché quando nel 1892 Matilde fonderà col marito il quotidiano Il Mattino di Napoli, il più importante organo di informazione del sud Italia, Enrichetta avrà 71 anni e ancora 9 davanti a sé prima di lasciare il corpo. Le due donne ebbero un inizio di vita molto simile, entrambe figlie di padri esuli, poterono tornare a Napoli dopo la cacciata dei Borboni e la consegna dell'Italia ai Savoia, ambedue vivendo inizialmente le difficoltà economiche dei padri rimasti senza sostanze né lavoro. Tuttavia entrambe riscattarono il loro nome e operarono con forza e passione per quelli che ritenevano, e concordiamo con loro, essere diritti fondamentali delle donne. Se Enrichetta scrisse il pamphlet contro la monacazione forzata e denunciò quanto avveniva nei monasteri, come abbiamo letto sul nostro canale YouTube, Matilde si occupò delle donne disonorate che venivano abbandonate a se stesse, spesso con un figlio in grembo e un'unica strada possibile per sopravvivere. Il padre di Matilde Serao scriveva, e dunque lei stessa crebbe col profumo della carta stampata nelle narici, pur avendo imparato a leggere e scrivere tardi, a 8 anni. Sembra che la spensierata ragazzina non amasse studiare, ma che, essendo l'adorata madre inferma, si fosse impegnata per farle delle letture ad alta voce. Del suo essere autodidatta, però, lei si fregiava con orgoglio, come fosse un modo per proclamare la sua indipendenza intellettuale e morale. Per aiutare la famiglia, Matilde prese il diploma di maestra e, ormai diciottenne, tra il 1874 e il 1877 si impiegò come telegrafista alle poste centrali di Napoli, della cui esperienza lascia traccia nel suo romanzo Il romanzo della fanciulla, di cui daremo lettura sempre su questo canale. Grazie a quel particolare impiego imparò a raccontare i fatti quotidiani della gente, esprimendosi in maniera sintetica e chiara, ma con vivacità e colore. Sembra che addirittura modificasse gli scarni testi di una comunicazione ancora oggi definita telegrafica, così da renderla più interessante e creando la base di quello che sarà il suo personale stile giornalistico. A soli 16 anni Matilde scrisse il suo primo racconto e iniziò molto presto a collaborare con testate giornalistiche anche del nord Italia, meravigliando parecchio chi assisteva al suo ingresso nelle sedi dei giornali per il fatto che nessuna donna aveva mai osato presentarsi in una redazione a chiedere lavoro. Creativa e geniale, inventò il gossip e non si limitò a scrivere articoli, ma fu anche romanziera e organizzatrice culturale. Praticamente fu la prima redattrice del Regno d'Italia, poiché aprì la strada al lavoro di redazione per le donne che fino a quel momento avevano solo inviato pezzi come collaboratrici. Scriveva editoriali e note di costume, recensioni e invettive politiche, cui dava un taglio provocatorio e narrativo. Inoltre fu la prima ad aprire una rubrica di posta dove chi leggeva il suo giornale poteva far sentire la propria voce. E fu una vera e propria imprenditrice della cultura, poiché come fondatrice e direttrice di un quotidiano ne aveva in mano anche la gestione economica. In questo, ricordando per risonanza la veneziana Elisabetta Caminer Turra, che nel Settecento fondò, diresse e stampò il periodico Giornale Enciclopedico, che veniva distribuito in tutta Europa. Sembra che pure lei sia cresciuta con l'odore dell'inchiostro nelle narici, giacché anche suo padre scriveva. Anche Matilde Serao fondò e diresse quotidiani, 4 in poco più di un decennio. Il Corriere di Roma nel 1885, il Corriere di Napoli nel 1888 e il Mattino di Napoli nel 1892 insieme al primo marito. In seguito, da sola, fondò Il Giorno nel 1902. Va da sé che sia stata una grande giornalista quando questa parola aveva ancora un significato e un'etica. Le sue pagine erano appassionate, ma non si scostavano mai dalla realtà che lei osservava senza infiorarla di sensazionalismo e senza prendere parti politiche. Matilde Serao non ebbe paura di richiamare alle proprie responsabilità coloro che pretendevano di governare l'Italia, in questo ricordandoci a 8 secoli di distanza la coraggiosa attitudine di Hildegard von Bingen, che non le mandava certo a dire né a imperatori né a vescovi. Onorando il nome della grande statista medievale sua omonima, Matilde, Granduchessa di Toscana, difese i diritti delle donne, anche se evitò di dichiararsi femminista. Per lei non era una questione politica, ma sociale, e pur non dichiarandosi neanche emancipazionista, scrisse per una rivista, Il Giornale delle Donne, che viceversa rivendicava proprio quell'impostazione. Sul Corriere di Roma, a seguito del suicidio della maestra elementare Italia Donati, colpita da una feroce quanto immotivata diffamazione sulla sua condotta morale che le rovinò la vita, Matilde scrisse Come muoiono le maestre, in cui denunciava la situazione delle maestre elementari. Fu la prima a parlare dell'alienazione del lavoro femminile, per esempio della vita che facevano le serve. Ne scrisse in Il ventre di Napoli, in una ipotetica lettera all'allora presidente del Consiglio De Pretis. Scrisse, come la miseria incombe, la donna, la moglie e la madre, tutte quelle che hanno già molto partorito, che hanno allattato, tutte quelle che dovrebbero lavorare in casa, cercano lavoro fuori. Fortunate quelle che trovano un posto alla fabbrica del tabacco, che sanno lavorare e arrivano ad allogarsi come sarte, come modiste, come fioraie. La mercede è miserissima, 15 lire, 17, 20 lire il mese, eppure sembra loro una fortuna. Ma sono poche. Tutto il resto della immensa classe povera femminile si dà alla domesticità. La serva napoletana si alloga per 10 lire il mese senza pranzo. Alla mattina fa 2 o 3 miglia di cammino dalla casa sua alla casa dei suoi padroni, scende le scale 40 volte al giorno, cava dal pozzo profondo 20 secchi di acqua, compie le fatiche più estenuanti, non mangia per tutta la giornata e alla sera si trascina a casa sua come un'ombra affranta. Ve ne sono di quelle che pigliano 2 mezzi servizi a 6 lire l'uno e corrono continuamente da una casa all'altra, continuamente rimproverate per le tardanze. Ne ho conosciuta una, io sì, chiamava Annarella, faceva 3 case al giorno a 5 lire. Alla sera era inebetita, non mangiava, morta dalla fatica, talvolta non si svestiva per addormentarsi subito. Queste serve trovano anche il tempo di dare latte a un bambino, di far la calza, ma sono esseri mostruosi. La pietà è uguale alla ripugnanza che ispirano. Hanno 30 anni e ne dimostrano 50. Sono curve, hanno perso i capelli, hanno i denti gialli e neri, camminano come sciancate, portano un vestito 4 anni e un grembiule 6 mesi. Non si lamentano, non piangono, vanno a morire prima di 40 anni all'ospedale di perniciosa, di polmonite, di qualche orrenda malattia. E tutti gli altri mestieri ambulanti femminili, lavandaie, pettinatrici, stiratrici a giornata, rimpagliatrici di seggiole, mestieri che le espongono a tutte le intemperie, a tutti gli accidenti, a una quantità di malattie, mestieri pesanti o nauseanti, non fanno guadagnare a quelle disgraziate più di 10 soldi, 15 soldi al giorno. Quando guadagnano 1 lira, le miserelle fanno economia e si maritano. Sono brutte, è vero, si trascurano, è verissimo, fanno schifo talvolta, ma chi tanto ama la plastica dovrebbe entrare nel segreto di quelle esistenze che sono un poema di martirio quotidiano, di sacrifici incalcolabili, di fatiche sopportate senza mormorare. Gioventù, bellezza, vestiti, ebbero 1 minuto di bellezza e di gioventù, furono amate, si sono maritate. Dopo, il marito e la miseria, il lavoro e le busse, il travaglio e la fame, hanno i bimbi e devono abbandonarli, i più piccoli affidati alla sorellina. La fama di Matilde Serao valicò i confini nazionali, aveva contatti in tutto il mondo. La scrittrice americana Edith Wharton, autrice de L'età dell'innocenza, la conobbe a Parigi all'inizio del Novecento e ne scrisse in tali termini. Con il suo abito vistoso e la forte intonazione della voce sembrava fuori posto, in quel salotto dove tutto era mezze tinte e mezzi toni. Ma quando cominciò a parlare, sentimmo una maestra. Matilde Serao non cercò mai di vaticinare o di predominare. Ciò che le interessava era scambiare idee con persone intelligenti. La sua formazione da giornalista le aveva dato una conoscenza della vita e un'esperienza di affari pubblici totalmente assente nelle altre donne del salotto che lei superava in arguzia ed eloquenza. Ascoltava attentamente, non si soffermava mai troppo su un punto, piazzava le sue sortite al momento giusto e apriva la strada all'intervento successivo. Ma quando veniva incoraggiata a parlare e le veniva dato il campo, i suoi monologhi salivano a vette più alte di quelle dei discorsi di qualsiasi altra donna che io abbia mai conosciuta. L'immaginazione ardente della romanziera, 2 o 3 dei suoi romanzi sono magistrali, era nutrita da ampie letture e dalla varia esperienza di classi e tipi fornita dalla sua carriera giornalistica. Cultura ed esperienza si fondevano nel bagliore della sua potente intelligenza. Il marito di Matilde, del quale lei non usò mai il cognome, la tradiva e lei, ignorando l'umiliazione, si dedicò sempre più alla scrittura, arrivando a scrivere fino a 3.000 parole al giorno. colse in famiglia la figlia che il marito aveva avuto dall'amante, la quale abbandonò la neonata sulla porta della loro casa e si suicidò. Fu in feroce polemica con i governi dell'Italia post-unitaria che pensavano di ripulire le città abbattendo e ricostruendo i palazzi nei quartieri centrali, ma lasciando i bubboni marcescenti nelle periferie. Come già la cilena Nobel per la letteratura Gabriela Mistral, Matilde Serao conosceva la sua terra, l'aveva girata ed esplorata ed era in grado di scriverne senza omettere le brutture. Fu solidale con le altre donne, per esempio incoraggiò Annie Vivanti a scrivere. Annie, di cui la nostra scuola ha proposto la lettura di Circe, le aveva mostrato delle semplici poesie, ma Matilde percepì e apprezzò la forza nella penna della giovane, che era solo considerata la musa del molto più vecchio Carducci, il quale si arrabbiò sostenendo che le donne non dovevano scrivere romanzi, ma per fortuna Annie non lo ascoltò e infatti divenne una scrittrice e reporter di prim'ordine. Circe è il romanzo confessione di Maria Tarnovskaya, una nobildonna russa che finì sotto processo nel 1910 in Italia per aver fatto uccidere un suo amante e che Annie ottenne di intervistare nel penitenziario di Trani, ricavandone uno dei primi romanzi reportage, di cui abbiamo dato lettura sul nostro canale, in cui si evidenziava Maria Tarnovskaya come vittima delle circostanze che la spinsero al gesto. Di soli 5 anni più anziana di Matilde, per molti versi in risonanza con lei anche nell'aspetto fisico e nel carattere, fu la spagnola Emilia Pardo Bazán di cui la nostra scuola si è occupata. C'è da immaginare che le due si siano incontrate da qualche parte nei salotti europei, probabilmente a Parigi, e abbiano animatamente discusso da quelle brillanti menti che erano. Nel 1882, proprio mentre Matilde Serao otteneva il suo primo lavoro come redattrice a Roma, Emilia Pardo Bazán pubblicava una serie di articoli che si trasformarono nel libro La questione palpitante, a causa del quale divenne persona non gradita al governo spagnolo. Per giunta, in un'epoca in cui non esisteva il divorzio, Emilia si separò dal marito che voleva impedirle di scrivere, ebbe un nuovo compagno e sostenne che le donne dovevano avere la possibilità di guadagnarsi da vivere in modo decoroso. Scrisse romanzi, racconti, saggi per la stampa spagnola e straniera e circa 1500 articoli in cui, come Matilde Serao, parlava di attualità senza peli sulla lingua. Si servì del suo rango di contessa per promuovere e difendere l'emancipazione femminile e il femminismo. Fu la prima donna ad essere presidente della sezione letteratura dell'Università di Madrid. Tornando a Matilde, i suoi romanzi furono tradotti in tutta Europa e in America. Quando la convivenza col marito divenne impossibile, in seguito ad accuse di fatti illeciti nei quali anche lei rimase coinvolta, dovette lasciare il Mattino. Non molto dopo, nel 1902, fondò a suo nome Il Giorno, quotidiano che ebbe successo immediato grazie alla fama di lei. Nello stesso anno, quasi si fossero messe d'accordo, Ersilia Bronzini Maino fondava l'asilo Mariuccia, come vedremo. In tarda età, dopo 4 maschi avuti col marito, Matilde ebbe dal nuovo compagno la tanto desiderata figlia, che chiamò Eleonora in onore della Duse, sua grande amica. Un anno prima di andarsene, nel 1926, fu candidata al Nobel, che però non le fu assegnato. Secondo la versione ufficiale, perché fu osteggiata da Mussolini. Secondo noi della Scuola delle Donne, semplicemente perché da separata aveva avuto una figlia col nuovo compagno prima di sposarlo, cosa che avvenne quando rimase vedova del primo marito. Come abbiamo già avuto modo di osservare per altre grandi antenate, la commissione del Nobel usava ampiamente 2 pesi e 2 misure e non accettava dalle donne un comportamento che invece dagli uomini era tollerato. Sappiamo che Maria Montessori non fu candidata perché aveva avuto un figlio fuori dal matrimonio e che Marie Curie fu fortemente osteggiata in entrambe le candidature. La prima perché donna, la seconda perché, nonostante fosse vedova ormai da anni, si dice avesse una relazione affettuosa con un collega. Marie dovette combattere per questa ingiustizia e scrisse una lettera alla commissione del Nobel chiedendo se veniva giudicato il suo lavoro o la sua vita privata. Nel 1926, dunque, anziché a Matilde Serao, il Nobel andò a Grazia Deledda, che Matilde aveva comunque sostenuta e recensita, Certamente Grazia meritò di vincere. I suoi libri sono pietre miliari della nostra cultura italica. Ma Matilde avrebbe dovuto vincere a pari merito, poiché oltre a scrivere romanzi, operò attivamente nel sociale e dunque a maggior ragione avrebbe dovuto essere riconosciuta, mentre oggi non è nemmeno presente nei libri di testo. Per questo continueremo a non credere alle chiacchiere sulla parità di genere, fin tanto che nomi di donne che è vergognoso omettere non compariranno negli indici dei libri di storia e di letteratura. Lasciò il corpo nel 1927 a 71 anni, seduta alla sua scrivania redigendo un articolo. Nella sua vita di scrittrice vergò più di 5 milioni di parole tra articoli, saggi, novelle e romanzi. L'ultima che riuscì a compitare prima di perdere conoscenza fu la parola amabile. Un anno dopo Virginia Woolf avrebbe pubblicato quello che è considerato il vademecum per l'emancipazione delle fanciulle, ovvero il saggio, una stanza tutta per sé, che Matilde tuttavia aveva già ampiamente sperimentato di persona, dato che per scrivere non si era limitata ad avere una stanza tutta per sé, ma aveva avuto le intere redazioni dei suoi giornali. Ersilia Maino. Riavvolgiamo il nastro e torniamo indietro di 7 decenni. Mentre la piccola Matilde, di 3 anni, sgambettava felice nella natia Patrasso, seguita dalle cure amorevoli della mamma, un'altra futura grande donna nasceva a Milano in una famiglia di commercianti nel 1859. Di nuovo, a causa dei problemi di lavoro del padre, ci furono difficoltà all'inizio dell'esistenza e ancora una volta una bambina con grandi doti e potenzialità non poté studiare, poiché i soldi servirono a malapena a far laureare i suoi fratelli. Stiamo parlando di Ersilia Bronzini, che come Matilde studierà da sola. Letteratura, storia, filosofia e lingue straniere. E studierà tanto da diventare una delle più attive protagoniste del movimento italiano di emancipazione femminile, nonché una delle più influenti donne lombarde dell'Ottocento. La parte importante della vita di Ersilia cominciò dopo il matrimonio, nel 1883, mentre una 27enne Matilde Serao da un anno lavorava a Roma, nella redazione del quotidiano Capitan Fracassa. La 24enne milanese Ersilia Bronzini sposava Luigi Maino, che in seguito divenne deputato per il Partito Socialista e di cui lei acquisì, contrariamente a Matilde che mantenne quello paterno, il cognome con cui la conosciamo. Dopo la nascita della terza figlia Mariuccia, Ersilia, ormai trentenne, cominciò ad avvicinarsi all'impegno sociale e politico. Conobbe Anna Kuliscioff nell'ambiente socialista di cui faceva parte il marito e Anna, durante una delle sue campagne per i diritti delle donne, si ispirerà alle norme per regolare il lavoro delle donne scritte da Ersilia. Dopo i sanguinosi scioperi del 1898, mentre Anna Kuliscioff fu difesa dal marito di Ersilia che era avvocato, sua figlia Andreina veniva ospitata in casa Maino. Ersilia prese parte alle attività della Guardia Ostetrica di Milano, che assisteva gratuitamente le donne povere durante la gravidanza e il parto, rivelando immediatamente le doti organizzative che sempre la contraddistinsero. Riuscì a far avere un riconoscimento formale all'ente, cosicché potesse ricevere finanziamenti, aumentando notevolmente le entrate e offrendo lezioni pratiche di puericultura per le più povere. Fu impegnata con l'Associazione Generale di Mutuo Soccorso e di Istruzione delle Operaie per il miglioramento delle condizioni di lavoro fra le sarte da donna e nella sezione femminile della Camera del Lavoro. L'assidua frequentazione della Guardia Ostetrica di Milano mise in moto in lei un processo interiore che si tradusse nella sua decisione di lavorare a fianco del proletariato femminile, ma con occhio prioritario, all'interno della più generale questione operaia, per la questione femminile, che non era uguale a quella maschile. Le donne infatti rischiavano continuamente di essere abusate dai capi reparto, dietro ricatto, di essere licenziate e una volta che rimanevano incinte venivano dagli stessi scacciate. A quel punto non rimaneva per loro che un'unica via, quella della prostituzione. Per Ersilia e per le altre femministe dell'epoca, la maternità era da considerare, come scrive Annarita Buttafuoco, il destino comune di tutte le donne e proprio per questo il nodo più profondo della solidarietà femminile. Un sentimento e un valore per madri potenziali o reali che devono fondare soprattutto su questa loro specificità le lotte contro lo sfruttamento, la discriminazione e l'ingiustizia che le colpiscono. Durante questa esperienza, Ersilia venne a conoscenza delle forme di abuso di cui erano vittime molte donne, incesti, stupri, violenze domestiche e sul lavoro, e queste fecero maturare in lei sempre più la voglia di fare qualcosa. L'incesto era un fatto drammatico, comune a quell'epoca, inarrestabile e scontata parte della convivenza per molte famiglie. Difficilmente chi lo attuava veniva denunciato per evitare la vergogna dello scandalo, nonché le sue pericolosissime ripercussioni. Vi era piuttosto un tacito consenso da parte di tutta la famiglia per mantenere una situazione di apparente regolarità. Spesso l'incesto diventava la prima tappa verso la prostituzione, poiché dopo averlo subito le bambine iniziavano la vendita del proprio corpo per denaro, cibo o altro. Nel 1899, mentre Matilde Serao era in procinto di lasciare il mattino e il marito per fondare il giorno, Ersilia, sulla scorta dell'esperienza avuta con le operaie e il mutuo soccorso e sotto la spinta ideale del femminismo pratico, fondò insieme ad altre donne della buona società milanese impegnate nella beneficenza l'Unione Femminile, che in seguito allo sviluppo in tutta Italia divenne, 6 anni dopo, una società anonima cooperativa col nome di Unione Femminile Nazionale. Ersilia la definì una lega creata allo scopo di cooperare all'elevazione morale e al miglioramento intellettuale, economico e giuridico della donna, affinché anche lei possa contribuire a quel faticoso ma perseverante lavorio di elevazione che l'umanità sta compiendo, elevazione che deve avere per base il compimento dei doveri e il riconoscimento dei diritti di tutte le creature umane, senza distinzioni di sesso o di classe. L'iscrizione all'Unione con obbligo triennale costava dalle 2 alle 10 lire a seconda di quanto potevano pagare le iscritte, che a prescindere dalla quota associativa avevano però tutti gli stessi diritti. Tra gli scopi dell'Unione Femminile vi era quello di riorganizzare la beneficenza su basi più razionali. Si trattava di una sorta di ombrello sotto il quale furono riunite diverse altre associazioni e attività che avevano lo scopo di cooperare all'elevazione morale e al miglioramento intellettuale, economico e giuridico della donna. Ersilia dedicò interamente le sue energie all'Unione Femminile Nazionale e ad alcune delle istituzioni che ne erano derivate, tra cui l'omonima rivista fondata sempre nel 1901, per la quale scriveva regolarmente, e il Comitato Italiano contro la Tratta delle Bianche, di cui Ersilia aveva accettato di presiedere la sezione milanese, ospitata anch'essa dall'Unione. Dietro sua spinta, l'Unione continuò indefessamente a stimolare i governi con relazioni, petizioni, articoli, conferenze riguardo alla necessità di emanare una legge a tutela del lavoro femminile e minorile, e quando finalmente la legge fu promulgata, Ersilia e le sue collaboratrici la sottoposero a un minuzioso esame critico, evidenziando le numerose deficienze. La vita di questa straordinaria antenata fu funestata da due grandi lutti che la motivarono a dedicarsi ancora di più alle fanciulle in difficoltà. Infatti, nello stesso anno in cui nasceva l'Unione Femminile, Ersilia perse l'amatissima figlioletta minore, Mariuccia, che se ne andò prematuramente a causa della difterite. Ersilia aveva 42 anni e quando l'anno seguente fondò l'asilo per bambine e donne vittime di abusi, volle chiamarlo Mariuccia per commemorare la figlioletta. 4 anni dopo, proprio in quel 1905 in cui l'Unione Femminile diventava nazionale, Ersilia perse anche la figlia maggiore. L'asilo Mariuccia, un servizio pubblico e gratuito ancora oggi attivo, di carattere laico, emanazione del Comitato contro la Tratta delle Bianche, fu fondato nel 1902 per accogliere bambine e adolescenti che rischiavano di entrare nel giro della prostituzione ospitarle e insegnare loro un mestiere così da renderle indipendenti. Ad oggi, in 120 anni di attività, l'asilo Mariuccia ha accolto più di 5.500 tra madri e minori, il 70% delle quali vittime di stupro o incesto. Ersilia diresse l'asilo Mariuccia per 34 anni, fino a quando lasciò il corpo. Proprio il suo carattere laico distingueva l'asilo da altre istituzioni di carità. Infatti, nella struttura fondata da Ersilia, le fanciulle, dette mariuccine, non venivano compiante né giudicate, ma pragmaticamente aiutate a imparare un mestiere. L'aiuto che veniva loro offerto non aveva nulla a che fare con il concetto di carità di stampo cattolico, bensì si inquadrava nella solidarietà e cooperazione tra donne. L'Unione Femminile, che cercò in tutti i modi di favorire l'abolizione della prostituzione legale, andando contro la politica in vigore e gli istituti educativi e correttivi gestiti da personale religioso femminile, che fino a quel momento si erano posti come l'unica soluzione a tale problematica, attuando però servizi spesso ingiusti e disumani. Ersilia sentì il forte bisogno di creare una casa alternativa per tutte le donne e le bambine in pericolo. Un luogo che si ispirasse, come dichiarò lei stessa, a quei sentimenti di vera umanità e amore che sono i più atti a risvegliare in chi, quasi sempre non per colpa sua, è caduto in basso. La coscienza della propria dignità, il senso morale, il desiderio della propria riabilitazione. Su questa stessa linea Elizabeth Gaskell in Inghilterra scrisse Ruth, un romanzo che prende le parti della donna abusata anziché condannarla. Anche questo romanzo è presente nel nostro archivio su questo canale. La linea educativa attuata nell'asilo doveva basarsi sullo studio dei singoli casi, poiché, secondo Ersilia, ogni donna ha un'individualità che va sostenuta, una mente originale che va sviluppata e proprie attitudini che vanno rispettate e fatte crescere. Lei desiderava un rapporto con le ospiti fatto sì di autorevolezza, ma anche di ampia comunicazione e comprensione. Paziente amore, scriveva, talvolta solo di questo hanno bisogno le infelici perché l'animo loro si apra come un fiore di luce, di bene. Ed è per questo che infatti applicò una sorta di pedagogia materna. L'asilo Mariuccia era una casa in cui rigenerarsi grazie all'assorbimento di un buon esempio di vita. Maria Montessori, dopo aver fatto visita alle mariuccine nel 1908, così si espresse: quando entrai per la prima volta all'asilo Mariuccia, ebbi l'impressione di entrare non in un istituto, ma nell'anima grande di una donna, con la D maiuscola. L'accesso e l'assistenza erano gratuite, la burocrazia fu azzerata, la volontà di dare visibilità al lavoro delle donne e risvegliare in loro la coscienza dei propri diritti concretizzata, sostituendo alle elemosine strumenti di libertà e indipendenza. Alla fine del 1916 l'asilo era stato ingrandito. Ora era un edificio di 3 piani con camere per un centinaio di ospiti, servizi igienici con acqua calda e docce, stanze di lavoro e studio, cucina, guardaroba, lavanderia, stireria, che venivano utilizzate anche come laboratori per insegnare alle mariuccine i lavori domestici e in più una grande sala per la ricreazione. Nel romanzo La fabbrica delle tuse, l'autrice contemporanea Giacinta Cavagna di Gualdana suggerisce che fosse una mariuccina la cuoca di Casa Zaini, proprietaria della omonima fabbrica milanese di cioccolato. Eppure, come troppo spesso succede quando si tratta di donne o delle loro opere, pensiamo alle beghine che da donne libere ed emancipate sono diventate sinonimo di donnette dalla mente ristretta. Anche nel caso dell'asilo Mariuccia c'è stato lo stesso processo di ridicolizzazione da parte del sistema androcratico. Oggi, a Milano e provincia, si usa l'espressione asilo Mariuccia per intendere un comportamento infantile. Tra il 1900 e il 1923 Ersilia fu presente alla maggior parte dei convegni che trattavano i problemi relativi alla protezione delle donne e dell'infanzia. L'asilo aveva al suo interno una sezione che organizzava eventi culturali e spettacoli per raccogliere fondi e sensibilizzare la popolazione. Purtroppo con il Partito Socialista c'era stata una divergenza. Ersilia si rifiutava di subordinare la questione femminile alla ideologia politica, poiché sentiva che l'emancipazione delle donne non poteva attendere né essere assorbita nella tanto sognata rivoluzione popolare mondiale e soprattutto che andava affrontata non con istanze generiche, bensì specifiche. Poiché le lavoratrici avevano, in quanto donne, problemi che agli uomini erano estranei, ovvero, come detto, le molestie sessuali. In questo, come scuola delle donne, ci sentiamo perfettamente allineate con la neutralità politica di Ersilia. Si batté per cambiare le condizioni in un paese dove le bambine lavoravano anche sotto i 12 anni, dove le donne erano costrette a recarsi al lavoro sia subito prima che subito dopo il parto, dove gli stipendi delle donne erano di molto inferiori rispetto a quelli degli uomini. Le condizioni igieniche di sicurezza erano disastrose e la libera professione era di dominio maschile e molti incarichi esclusi alle donne. Troppe erano sfruttate e umiliate sia sul lavoro che a casa, anche nella minore età. Miserie e tribolazioni non lasciavano spazio alla coltivazione del proprio intelletto e della propria persona. Ersilia, nei suoi lavori, seguì l'esempio e la scia anche di altre femministe, tra cui Laura Solera Mantegazza, che già nel 1850 aveva istituito a Milano un ricovero per i bambini appena nati, le cui madri dovevano assentarsi per lavorare. Inoltre aveva fondato scuole professionali per le lavoratrici. Dichiarò senza mezzi termini: «Per salvare l'infanzia torturata e abbandonata non basta condannare i genitori». Bisogna togliere non una, ma tutte le cause che producono nel XX secolo questo fatto degno di un'epoca di barbarie. Occorre tutta una trasformazione dei patti di lavoro, occorre una legislazione che imponga a chi non ha coscienza limiti all'ingordigia e allo sfruttamento. Ma soprattutto occorre istruire e ben istruire il fanciullo e la fanciulla. Occorre che la scuola lo accolga e la accolga, si sostituisca alla famiglia che la società gli toglie, le toglie, perché ha bisogno del suo lavoro. Insieme al marito, Ersilia fece portare a compimento la prima clinica del lavoro al mondo, ideata da Luigi Devoto per la cura e il riconoscimento delle malattie contratte sul lavoro, ritenute malattie sociali. In più, si dedicò fortemente anche alla devianza minorile, alla ricerca di mezzi per prevenirla e curarla, aprì la strada alle riforme che porteranno all'istituzione del Tribunale dei Minori di Milano e alla creazione di associazioni adibite al reinserimento nella società dei giovani deviati. Intanto in Russia maturava l'esperienza di una grande militante per i diritti delle donne, di cui come scuola ci siamo occupate, Alexandra Kollontai, che era nata nel 1872, quando la sedicenne Matilde Serao pubblicava il suo primo racconto ed Ersilia, ancora adolescente, studiava da sola e si preparava per la futura azione genetica. Alexandra conoscerà Rosa Luxemburg e diverrà molto amica della di lei compagna di lotte Clara Zetkin. Alexandra e Clara scrissero insieme alcune opere dedicate alla posizione della donna nella società. La più famosa è «Cosa vogliono le donne?». Entrambe erano d'accordo sul fatto che la donna dovesse essere liberata dalla schiavitù sociale e maschile, ma allo stesso tempo vedevano le vie di questa emancipazione in modo diverso. Mentre Clara poneva l'accento sui metodi sociali, Alexandra attribuiva un ruolo chiave all'emancipazione femminile ed elaborò il suo concetto di nuova donna. Una nuova donna, scriveva, non dovrebbe dipendere da un uomo, dalla sua decenza o depravazione, dall'amore o dall'antipatia per lei. Vive nell'interesse della società, non della sua famiglia, e combatte per i suoi diritti alla pari con un uomo. Le virtù femminili, come la pazienza, la sensibilità, la gentilezza, la capacità di cedere e altre, a cui le donne sono state addestrate per secoli nella società tradizionale, devono essere dimenticate e rifiutate. Una donna, d'ora in poi, sarà non solo e non tanto una moglie, una madre o un amante, ma soprattutto una lavoratrice e una attivista. Sono parole di Alexandra Kollontai. Così lei vedeva la donna del nuovo secolo e infatti nel 1917, a 45 anni, diventerà la prima donna al mondo nominata ministro di governo, mentre a Milano Ersilia Maino ampliava l'asilo Mariuccia e a Napoli Matilde Serao convolava a nozze col compagno e padre di sua figlia. Come rappresentante dell'Unione Femminile Nazionale e del Comitato Milanese contro la tratta delle bianche, Ersilia Maino propose alcune riforme legislative che furono accolte, tra queste la perseguibilità d'ufficio per i reati sessuali, l'ammissione delle donne agli uffici di tutela e soprattutto l'inasprimento delle pene per abuso di patria potestà. Di questo le sarebbe stata grata Sibilla Aleramo, che proprio nello stesso anno, il 1906, a 30 anni, pubblicò il suo romanzo autobiografico Una donna, nel quale raccontava le violenze fisiche e psicologiche ricevute dal marito e soprattutto la rinuncia al figlio che lui le impose quando lei se ne andò. Sibilla aveva lasciato il marito nel 1902, 4 anni prima dell'uscita della sua autobiografia. Ma già nel 1901 collaborava con la rivista Unione Femminile e proprio nel 1906 vi si iscrisse, entrando a collaborare attivamente con la sezione romana dell'Unione e diventando una tra le penne più prolifiche della rivista. Nel libro Ersilia Bronzini Maino, immaginario biografico di un'italiana tra ruolo pubblico e privato, si racconta lo strazio di questa donna che dopo la morte della prima figlia sentì sbagliato l'aver dedicato la maggior parte del suo tempo e delle sue energie all'esterno più che all'interno della sua famiglia. Emerge la difficoltà che Ersilia ebbe nel conciliare la vita privata con quella pubblica e la sospensione dalla partecipazione al mondo del lavoro che lei voleva autoimporsi dopo una perdita così grave. Nello stesso tempo, però, si manifestano fortemente l'amore e la fiducia che ella continua a dare ai suoi progetti, alle sue idee, alle azioni portate avanti fino a quel momento. «Io credo che quando si ama», scrisse in una lettera a Ellen Key, «il tesoro è inesauribile e meraviglia noi stesse trovarci ancora pronte a dare, ad agire, quando la folgore ha colpito ancora in modo tremendo». A 51 anni Ersilia rappresentò la Federazione Italiana Pro Suffragio al Congresso Femminile di Amsterdam. 5 anni dopo, nel 1915, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, a causa del prevalere dell'interventismo e dell'opera di crumiraggio durante gli scioperi, i crumiri erano coloro che andavano a lavorare al posto degli scioperanti, vanificando di fatto lo sciopero stesso, si dimise dal Consiglio dell'Unione Femminile Nazionale che lei stessa aveva contribuito a far nascere, ma continuò comunque a prestare la sua attività di assistenza umanitaria in diverse istituzioni, inclusa la sua stessa casa. Negli anni successivi si occupò maggiormente dell'asilo Mariuccia, che continuò a presiedere. Intanto Matilde Serao era stata scartata dal Nobel e l'anno successivo, nel 1927, aveva lasciato il corpo. Ersilia aveva allora 68 anni. Un anno dopo scrisse le seguenti parole, ancora oggi presenti nella homepage del sito internet dell'asilo Mariuccia. «Le fanciulle, le donne per qualsiasi motivo bisognose di immediata assistenza, trovano aiuto senza formalità, senza limite di età, ogni volta che ciò sia necessario e qualunque sia la causa del bisogno. Abbandono, maltrattamenti, profanazione, cattivi esempi, desiderio di redenzione, questo non è il collegio, non è l'istituzione, è l'asilo. Le accolte non sono le ricoverate, le convitrici, sono le figliole dell'asilo». Negli ultimi anni di vita, Ersilia ricucì i rapporti con le compagne dell'Unione Femminile Nazionale, le quali, quando lei lasciò il corpo a 74 anni nel 1933, 6 anni dopo Matilde Serao, organizzarono una solenne commemorazione per tributare a Ersilia Bronzini Maino l'omaggio di onoranza e di gratitudine che meritava. Giunge così a conclusione questo straordinario periodo in cui vissero in parallelo due tra le più grandi antenate della nostra matria. Vi invitiamo ad ascoltare sui nostri canali YouTube o Archive l'audiolettura di Il romanzo della fanciulla di Matilde Serao. Il termine fanciulla al singolare è stato usato per indicare la categoria delle giovani donne cosiddette in età da marito, che nella Napoli di fine Ottocento speravano in un matrimonio, buono o cattivo che fosse, sapendo che se lo avessero mancato, per loro sarebbe rimasta solo la scelta tra diventare monache o zitelle. I cinque racconti sono altrettanti stereotipi di storie femminili, spesso tratte dalla personale esperienza di Matilde, come in I telegrafi dello Stato, in cui confluiscono i ricordi del suo impiego giovanile come telegrafista. Storie raccontate con tale empatia e veridicità che le mariuccine milanesi di Ersilia avrebbero potuto solamente confermare.